d'or, che si aiuta straniere nazione, ramingai per castel e città, mai sensibile al fervido sprone, dice a ciascun. Siciliane o ben prisco valor, su sorgete, sorgete, la vittoria, all'or, la vittoria, all'or, la vittoria, all'or. O tu, Palermo, terra adorata, a me si caro, sorriso d'amor, ah, alza la fronte tanto oltraggiata, il tuo ripiglio, premier, premier, splendor. Torna al primiero.